Campagna 30 per 1000. Campagna 30 per 1000. Campagna 30 per 1000. E che siamo solo 1000? Quanta gente conosci? Quanta ti followa? Quanta gente ti likea? Quanta gente ti segue? Diffondi e sostieni la campagna di radio abbonamento di Radio Onda Rossa. La voce di chi non ha voce. Radio abbonati anche tu. Da www.ondarossa.info clicca sul banner e contribuisci attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso. Campagna 30 per 1000. E che siamo? Solo 1000? Radio abbonati anche tu.